Europa 24. Europa 24 che riparte da Milano, un saluto a tutti. Milano come punto di raccolta oggi del decimo vertice ASEM, dunque Europa-Asia, 50 capi di Stato e di Governo, molti affari quantomeno auspicati e poi una serie di problematiche, forse prima tra tutte la grande crisi appunto in Ucraina che avvelena i rapporti tra Europa e Russia e che segna con le sanzioni, l'escalation delle reciproche sanzioni anche il contesto economico già problematico. Tutto questo naturalmente abbiamo seguito tutti questi temi nei nostri giornali radio. Adesso vi segnalo in aggiunta solamente che Angela Merkel ha proprio voluto ripartire dal tema Ucraina, ha detto la Russia ancora non sta rispettando quanto deciso a Minsk. In quel caso il riferimento molto chiaro, molto esplicito è all'accordo del cessate il fuoco. Nel tardo pomeriggio il presidente russo Vladimir Putin sarà a Milano, per adesso invece a Belgrado, dove si realizza una parata militare, non avveniva da parecchi anni, e gli ospiti d'onore sono proprio le forze armate, in particolare l'aviazione russa. Cambiamo tema, condanna unanime dall'UEFA e Unione Europea per le violenze del match tra Serbia ed Albania. Appunto, il governo del calcio e della politica europea sigla un accordo di collaborazione a tutto campo. La politica non sia guidata da provocazioni da stadio. Le parole del portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Catherine Ashton, a commento di quanto accaduto durante Serbia-Albania e a supporto del deciso intervento del numero uno dell'UEFA Platini, sono la logica conseguenza del percorso comune che UEFA e Europa stanno facendo insieme. La UEFA e la Commissione Europea hanno infatti siglato un accordo di cooperazione per la lotta contro le partite truccate, la corruzione, il doping, la violenza, il razzismo e la tratta di esseri umani nel calcio, un'intesa che ha una durata di 3 anni. L'accordo impegna entrambe le istituzioni a lavorare insieme sulle questioni di interesse comune. Il testo dell'accordo chiede anche meccanismi di redistribuzione del reddito dai diritti TV e l'indennità di formazione per la solidarietà finanziaria tra lo sport di elite e lo sport di base. L'accordo prevede anche la collaborazione tra la Commissione Europea e l'UEFA nel contesto della Settimana Europea dello Sport. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece a Torino, dove sono in corso gli Stati Generali, la conferenza annuale di EEN, European Enterprise Network, quindi una rete di fatto creata per sostenere l'impresa, la piccola impresa, attraverso l'accesso ai fondi UE. Cristina Carpinelli ne ha parlato con Johanna Drake, direzione generale impresa e direttore appunto per l'informazione. Sentiamola. The Small Business Act has been the key. Il Small Business Act adottato dall'Unione Europea vuole valorizzare le imprese di micro, piccole e medie dimensioni. Il suo recepimento ha permesso di varare tante misure per rendere più competitive queste imprese, soprattutto in tempo di crisi. Lo Small Business Act di fatto è una nuova politica industriale basata su 10 principi guida: il credito, i tempi di pagamento, gli strumenti, le azioni per la crisi di impresa, le politiche per l'innovazione, l'energia e la sostenibilità ambientale. E poi ci sono le politiche e gli strumenti per l'internazionalizzazione. Però una delle cose su cui dobbiamo lavorare di più e con più forza è lavorare sulle competenze di queste imprese, perché le micro, piccole e medie imprese hanno questo handicap che notiamo ed è legato soprattutto a un'incapacità di comunicare le proprie competenze, la crescita interna, l'investimento che viene fatto sulla ricerca in ambito esterno, nella ricerca di nuovi contatti. Dobbiamo quindi puntare con forza su questo. Esistono realtà valide, virtuose, che non sanno di fatto inserirsi a pieno nel mercato internazionale. È tutto dunque per Europa 24. Naturalmente continuiamo oggi a parlare di temi europei nel corso dei nostri giornali radio. A domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.